Eccoci qui ritornati. Allora, adesso sono un attimo in lutto, però adesso abbiamo l'appuntamento con lo sport con tutto gol di Paolo De Paolis. Mi è vota bene al gioco para Cavaliere Germani. Amici ascoltatori, benvenuti a Tutto Gol, la trasmissione sportiva per cui vale la pena di accendere la televisione. Paolo, vedi che si mi radi, si proprio rincoglionito. Regista, tu sei un lusso, ti prego di stare in silenzio e di darmi il numero dell'ospite che dobbiamo chiamare in questo momento. Beh, te piglia, Allora, il numero è 349, ma che sei un numero di mogliere? Ah, scusa, mi hai sbagliato. Regista, te la faccio passare io la voglia di scherzare con mia moglie. Comunque, Dicela Idra, sta infoiata. Va bene. Comunque ti prego di mettermi in contatto con Mariolino Rocchino, detto Zlatan, attaccante del Real Caricchio. Pronto, Rocchino, ci sente? Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Ciao, allora, tu sei figlio d'arte perché tuo padre è l'allenatore del Popolo Bianco, vero? Sì, ed è lui che mi ha trasmesso questa passione. Ma è vero che eri una grande promessa del calcio? Sì, è vero, ero molto vicino al giovanile del Milan, poi ho fatto una scelta sbagliata. E sarebbe? Mi sono affidato a un agente ignorante e disonesto, ma sono piglio spanzo. Vuol dire nome e cognome se non ha paura. Come no, anzi, siamo tuovi pure. Andrea Margheritoni si chiama. Ah, sempre grominchione comunque. Comunque, io sembra così, Margheritoni, ma come sono andate poi a finire i fatti? Allora, ci siamo incontrati al CEPU, dove stava prendendo l'agenza medica. Ah. E lui mi ha detto di essere un grande agente. Azzo. Poi, dopo aver passato 3 mesi a mangiare e dormire a casa mia, tutta a spese mie, mi ha fatto partire per Milano da Galliano. Lui è rimasto da casa mia con la guagliona mia. Ah. Quando sono arrivato a Milano e ho fatto il suo nome, sono stato arrestato. Con quale capo d'accusa, Zlatan? Ma una cosa è tutto, istigazione alla prostituzione, riciclaggio, rapina a mano armata. Senza contare che mi ha fatto ingrassare 120 kg. Ichi, va bene, noi lasciamo stare, è meglio che non lo sappiamo per il bene dei telespettatori e dei bambini che stanno a casa. Io poi mi vai a mangiare un porco vivo. Vi salutiamo e vi auguriamo a Rocchino. Millo però. Sì, ti auguriamo buona fortuna. Cazzo mi frighiti. E arrivederci dal vostro Paolo De Paolo. Alla prossima.